Buonasera a tutti. Allora, è il 5 di dicembre 2016, sono le 21 e 2 minuti e voi siete in compagnia di me, Rosanna, di Alessandro dall'altra parte del vetro. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Alessandro e vi presento subito l'ospite che abbiamo in studio. Allora, adesso si sente bene Alessandro? Fai risentire la tua voce? Ancora? Sì. È meglio di prima? No, non sono sicura che prima la tua voce si sia sentita. Allora, oltre ad Alessandro abbiamo oggi con noi in studio Claudio Vernarelli. Buonasera. Buonasera, buonasera e grazie per avermi invitato questa sera. È un piacere Claudio e comunque poi diremo anche perché sei qui con noi. Vorrei salutare subito Anna Maria che dice Alessandro, le mandiamo un salutino? Beh, doveroso. Io allora volevo mandare un messaggio ma mi sono dimenticato, ma che ci deve ascoltare. Ci ha tirato la sola stasera e quindi che almeno stia incollata agli auricolari per sentirci in radio. Infatti, ciao Anna Maria, speriamo che, vabbè insomma sappiamo che non stai poco bene oggi, ma speriamo che tu stia presto meglio per tornare con noi in radio. E appunto, prima di accennare a quello che sarà l'argomento di oggi, volevo ricordare quindi che noi andremo in onda fino al 19 dicembre, quindi ci sarà ancora la trasmissione dei colori dell'anima lunedì 12 e poi lunedì 19 dicembre, poi saremo in vacanza e poi riprenderemo quindi il secondo lunedì di gennaio, che mi sembra è il lunedì 8 di gennaio, naturalmente sempre 9? Mm-hmm. 9 gennaio, grazie Claudio, e sempre alternandoci quindi con Rossella e Francesco e poi con Cecilia e io chiamo Cecilia and Girls, ma naturalmente le girls c'hanno un nome che io, mi scuso, non ho ancora imparato. Allora Claudio, a Brussels, che cosa racchiude questa parola a Brussels? Racchiude la comunità di abruzzesi che vivono e lavorano a Bruxelles. Mm-hmm. Questa è un'associazione culturale, in francese una ASBL, che è stata creata 4 mesi fa e ha come scopo quello di promuovere e di valorizzare la cultura abruzzese a Bruxelles, in Europa ed in Belgio. Mm-hmm. Ok, ed è un'associazione di cui sei il presidente? Sì, io l'ho fondato, ho avuto questa idea, ci ho messo molto impegno, ringrazio tutte quelle persone, i soci fondatori, Vito, Alessandro e Veronica che mi hanno dato una mano da subito e tutti quanti i soci che mi stanno dando una mano tutti i giorni per rendere questa associazione un qualcosa che non sia soltanto una assemblea di amici, un gruppo di amici, ma un qualcosa che possa veramente fare delle attività visibili in città e in Belgio. Va bene, allora parleremo quindi un po' in dettaglio di questa associazione, così anche cercando di capire che cosa può fare un'associazione come questa in Belgio, a Bruxelles in particolare, e magari ascoltiamo un po' di musica prima. Certo, è già tutto pronto per deliziarvi le vostre orecchie. Grazie. Alessandro, esiste l'associazione dei Lombardi a Bruxelles? Dei Longobardi? Noi discendiamo da Attila, direttamente da là, insomma. E quindi esiste l'associazione di Attila? Esatto, sì. No, non ne ho la qua idea, anche perché non saprei che cosa potremmo promuovere come cultura longobarda, insomma. Vabbè, vediamo allora cosa può promuovere l'associazione a Bruxelles, o almeno quello che magari, sì, gli intenti, quello che c'è ancora da fare, perché è una giovane associazione, quindi c'è ancora molto da fare. Allora sì, innanzitutto noi siamo un'associazione che ha come primo scopo quello di riunire quelle che sono le persone, gli abruzzesi che vivono qua a Bruxelles, che vivono e lavorano, dico a Bruxelles, perché Bruxelles, essendo una città comunque con dei connotati molto particolari, che ha sia la capitale comunque dello Stato belga che europea, quindi molte persone vengono qua, è un modo per riconoscersi come comunità. una volta che ci si riconosce come comunità che condivide dei valori, che condivide delle tradizioni, è possibile promuovere queste tradizioni verso un pubblico che sia italiano o belga o europeo. Quindi qua abbiamo la possibilità di diciamo promuovere le nostre attività tra italiani, che siamo tantissimi a Bruxelles, tra europei, quindi persone che lavorano con le istituzioni europee, e tra belgi, perché in Belgio c'è una comunità abruzzese molto molto forte, soprattutto in città come Liegi, Charleroi e Genk, e anche a Bruxelles. Ma in questa, diciamo, idea di andare verso un'associazione di Bruxelles, tu sei venuto anche in contatto con le altre associazioni? A Bruxelles o in Belgio? In Belgio, in Belgio. Allora sì, in Belgio le ho conosciute quasi tutte. Uh-huh. Ho conosciuto l'associazione di abruzzesi a Genk, l'associazione di abruzzesi a Charleroi, l'associazione di abruzzesi alla Louvière, manca quella di Liegi, e poi se ce ne sono altre, dico minori per città, non per altro, che sono anche a Morlaway, ad esempio non li conosco, ma comunque io dico Mons, ho conosciuto Di Rupo, quindi abruzzesi a Mons, mi manca solo Liegi come città, insomma. Uh-huh, ho capito. E secondo te l'associazione di Bruxelles che cosa ha di diverso, di più, di meno, ma insomma rispetto alle altre che credo esistano anche da un sacco di tempo? Esatto, allora innanzitutto il nome. Il nostro nome è A Brussels, potremmo dire, quindi A Brussels scritto in inglese. Perché in inglese? Perché la maggior parte delle persone che vengono qui a Bruxelles vengono per l'Europa, per l'Unione Europea, quindi hanno un'impostazione e parlano maggiormente inglese che francese. Questo già ci divide come esperienza dalle altre associazioni di abruzzesi, che sono fiamminghe o francofone, che sono arrivate qua 30, 40 anni fa con l'emigrazione e che si sono stabilite qui in Belgio, ma che hanno uno stile di vita completamente differente dal nostro. Perché mentre noi ci confrontiamo tutti i giorni con la capitale europea, quindi con delle opportunità che vengono da tutte le regioni d'Europa, da tutte le parti d'Europa, e quindi abbiamo la possibilità di condividere queste nostre tradizioni con delle persone anche che vengono, non so, dalla Romania o dal Portogallo. Io ho notato che persone che le altre associazioni abruzzesi hanno questa connotazione, diciamo, persone che vivono qua in Belgio da 30-40 anni, che si ritrovano per fare delle feste, degli eventi tra loro, quindi per ritrovarsi, per passare una serata insieme, con la consapevolezza di essere abruzzesi che vivono qua e che comunque l'estate tornano giù, quindi di non avere questo bisogno di far conoscere verso gli altri cosa vuol dire l'Abruzzo, perché loro già sono abruzzesi e vivono qua da 40 anni, quindi hanno alle spalle un'altra storia diversa, è completamente diversa dalla nostra qui a Bruxelles, perché qua a Bruxelles abbiamo delle persone che si sono trasferite qui 10 anni fa, 15 anni fa, 2 anni fa, 3 mesi fa, 5 anni fa, che hanno delle esigenze differenti. Noi siamo un'immigrazione differente rispetto a quella di 40 anni fa, e questo si rivede soprattutto nelle nostre iniziative, ripeto, nel nome, perché noi non vogliamo ricadere nella divisione belga tra fiamminghi e valloni. Noi lavoriamo con la Commissione Europea, lavoriamo per la maggior parte del tempo in inglese, quindi vogliamo darci questo tono di siamo internazionali, quindi il nostro logo, il nostro nome rispecchia la nostra identità, che noi siamo migranti di, non so chiamarla seconda o terza generazione, che vengono, che scelgono Bruxelles con uno scopo ben preciso, cioè lavorare, io dico con l'Unione Europea, intesa come in senso lato, quindi le istituzioni europee, il Parlamento, la Commissione, tutte le grandi aziende che si sono trasferite a Bruxelles perché c'è la capitale europea, più che la capitale belga. E quindi questo perché è importante? Perché nelle varie attività che faremo abbiamo sia da una parte il lato enogastronomico che dall'altra parte il lato turistico, cioè noi vogliamo, per quanto possibile, implementare e far conoscere l'Abruzzo ad europei. Quindi con un'attività che abbiamo già comunque messo in cantiere, che verrà una mostra fotografica che sarà istituita presso il Comitato delle Regioni dal 23 febbraio al 21 marzo, dove esporremo 20 foto e 5 video presso il Comitato delle Regioni, l'organo che rappresenta tutte le regioni europee, quindi noi faremo conoscere l'Abruzzo agli europei. Ecco, allora questa è una delle iniziative, ne parleremo ancora, magari appunto ricordando intanto il sito web che è www.abruxelles.com. Quindi Brussels, una B, Brussels, proprio come si scrive a in inglese? Brussels, come Brussels. A Brussels, a Brussels.com. Naturalmente a Brussels e anche su Facebook. Assolutamente sì. Per chi è su Facebook, perché io non ci sono, potete imparare tutto. Ma come non ci sei? No, beh, non ci voglio essere. Creiamo subito un profilo adesso? No, no. Sì, beh, oh, bisognava pure temperare questa inconvenienza. Voglio no, come voglio fai? Farmi prendere in giro sul fatto che non sono su Facebook. Ma riesco a vivere benissimo e soprattutto mi ricordo spontaneamente dei compleanni di quelli che conosco. E non è Facebook che me lo deve ricordare, oh, ci tengo. Io ho il telefonino in promemoria, se no senza di quello io non so vivere. Vabbè, anch'io ce l'ho, però spesso me lo ricordo da sola, senza telefonino. Allora, che dici, vogliamo fare ancora un po' di musichetta? Certo, è già pronta. È già pronta. E poi la domanda che facciamo prima della canzone, ma quando si magna? Si mangia sabato, sabato abbiamo un'attività enogastronomica. Preparati la risposta dopo la canzone. Eccoci qua. Va bene. Allora, eccoci di nuovo in studio, breve riepilogo, state ascoltando I colori dell'anima, sono le 21:20 con Rosanna, Alessandro e ospite in studio Claudio Vernarelli. Stiamo parlando di un'associazione che è qui a Bruxelles, di cui Claudio è il presidente, si chiama A Brussels, e però appunto prendiamo anche l'occasione per riflettere del senso che ha avere un'associazione di italiani, di abruzzesi in particolare, a Bruxelles, in Belgio. Che cosa può fare un'associazione che non sia solo il mangiare, anche se Alessandro chiedeva prima se magna, ecco, qual è la risposta? Beh, ma guarda che io non è che faccio delle cose, mi invento delle cose così. Tanti anni fa alcuni stagiari della commissione si erano inventati un sito web dove dicevano giorno per giorno dove tu potevi andare a mangiare gratis. Mm-hmm. E qua ogni sera c'è un vernissage, ogni sera c'è una presentazione di qualcosa, certo. Non è che vai proprio a mangiare, ti danno queste, sì, certo, come le chiamo io, le minchiatine, quei paninetti, però alla fine se sei uno studentello e sei appena uscito dall'università, sei uno stagiario, quindi non è che guadagni queste grandi cifre, oh, mangiare gratis ti fa comodo. Certo. In più, se in questo caso è anche buono, perché no? Certo, certo. Però chiaramente qui è un'associazione, non è che c'hai soldi per offrire i drink o anzi... io sono pronto a pagare, voglio dire. Ah, sei pronto a pagare? Ah, ecco, già cominciamo a ragionare. Come dico, il mio motto è money is not an issue. Se pagare si paga. Vabbè. Allora, a proposito di mangiare, sì, posso già dire che l'associazione a Bruxelles ha organizzato una serata di arrosticini. Arrosticini, porchette a Montepulciano. Arrosticini, allora, Alessandro, tu sai cosa sono gli arrosticini? Non lo so, ma ho visto un video del mio amico di Pescara che li faceva sul terrazzo di casa sua, quindi posso capire. Va bene, quindi sono delle specie di spiedini, possiamo dire così, Claudio? Certo. Degli spiedini fatti con carne di pecora, quindi con una carne, diciamo, che solitamente non si mangia, e sono tagliati piccoli, quindi rispetto agli spiedini dove invece ci sono dei bocconcini di carne, questi pezzettini sono molto più piccoli e di solito vengono fatti alla brace. E quindi appunto Claudio con gli altri soci ha organizzato questa serata a settembre all'aperto ed è stato molto simpatico perché appunto c'era la porchetta, c'erano vini abruzzesi, giusto, e c'era il pane con l'olio, anche quello abruzzese, e naturalmente era una serata dove quindi chiaramente si pagava per la partecipazione, ma era un modo appunto per così per stare insieme da una parte tra i soci, però era un evento anche aperto ad altri, quindi chiunque ha potuto partecipare, quindi questi arrosticini verranno probabilmente ripetuti quest'anno, sì, cioè l'anno prossimo. Sì, al 100%. Uh-huh, va bene. Che penso che sia un prodotto comunque che contraddistingue l'Abruzzo nel mondo, cioè gli arrosticini vengono dall'Abruzzo. Noi tutti abruzzesi mangiano molte arrosticine, siamo molto fieri di questa tradizione. Soprattutto nelle sagre, diciamolo. Nelle sagre, e quindi vedo lo trovo un ottimo modo per fare una festa, per stare insieme mangiando qualcosa di buono. Va bene, quindi insomma, per dire delle cose mangerecce. Poi ci sono altre attività mangerecce, Claudio? Sì, una il prossimo sabato 10 dicembre, hashtag save the date, faremo una degustazione gratuita di olio abruzzese. Dove? Presso la nostra sede, che si trova nel ristorante Vigne e Sapori, Gallerie dell'Intut, vicino alla fermata della metro Merod. Come è organizzata questa manifestazione? Faremo assaggiare la nostra prelibatezza, questo olio regionale, che viene direttamente dall'Abruzzo, cercando di far conoscere anche questo lato dell'enogastronomico abruzzese, che non siano solo gli arrosticini. Poi sappiamo che comunque, anche se quest'anno diciamo le olive e la raccolta non è andata molto bene perché ci sono dei problemi in Italia legati alla mosca e quant'altro, però ci tenevamo a fare questa attività e far conoscere quest'olio gratuitamente. Quindi ci sarà questo, diciamo, abbiamo buttato giù questa idea come se fosse un mini aperitivo di Natale. Ci sarà la possibilità di assaggiare pane e olio abruzzese genuino 100% dall'Abruzzo, abbinandolo con una buona bottiglia di vino, che sarà ad un prezzo scontato ovviamente, per chi vuole fare questo aperitivo. E sarebbe una buona, comunque, questa attività di sabato pomeriggio dalle 6 alle 9 per fare questo aperitivo di Natale e poi cominciare una bella serata che potrà finire comunque con degli amici, danzando, andare in centro, una buona birra, però cominciamo ad immergerci nell'area natalizia, di aperitivi, amici e quant'altro. Va bene. Allora, l'associazione... Dunque, abbiamo detto che c'è il sito web www.abruxelles.com, esiste naturalmente su Facebook, Claudio ha già detto che ci sarà una mostra fotografica, quindi in questa mostra che immagini ci saranno? Allora, la mostra ha come titolo Scorci d'Abruzzo. Perché Scorci d'Abruzzo? Perché già ci sono state altre mostre sui paesaggi, città d'Abruzzo, natura e quant'altro, siamo la regione più verde d'Europa. Noi vogliamo dare questa impostazione differente di uno scorcio, cioè questa mostra sarà aperta, abbiamo appena lanciato un contest pubblico per raccogliere le foto di tutti i professionisti, fotografi, professionisti e non, associazioni culturali e di volontariato, promozione sociale che sono in Abruzzo, che vogliono promuovere il proprio scorcio d'Abruzzo, che va dalla montagna al mare. Quindi questa peculiarità cos'è? Noi vogliamo per l'appunto portare avanti non le classiche immagini che vediamo, che possiamo vedere su Google, mettiamo Abruzzo immagini e vediamo quello che esce, vogliamo proprio pubblicizzare quel scorcio d'Abruzzo di quel paese, di quella città, oppure di quella parte dell'Abruzzo che ancora non si conosce. E chi lo fa? Lo facciamo insieme agli abruzzesi che sono giù in Abruzzo, che ci manderanno queste foto gratuitamente, noi le stamperemo, le pubblicheremo. E per questo vorrei ringraziare anche la presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, che ci sta sovvenzionando la mostra totalmente. Quindi noi porteremo questi scorci d'Abruzzo, queste piccole realtà della nostra regione. Non solo, grazie anche comunque vorremmo lanciare anche questo nuovo tipo contest da un punto di vista audiovisivo, quindi lanciando questi video, pubblicando anche non solo foto, ma realizzando questi video che rappresentano per l'appunto questi scorci d'Abruzzo anche dal punto di vista audiovisivo. E tutto questo, comunque, vorrei ringraziare anche il Comitato delle Regioni perché ci ha dato questa possibilità, ci ha dato un mese dove il Comitato sarà comunque adibito per l'Abruzzo, quindi diciamo che c'è stato un bel lavoro dietro, però sta andando tutto bene. Si può entrare a visitarlo? Si può entrare a visitare la mostra o no? La mostra sì. Però per fare questo bisogna registrarsi, poi queste sono cose che poi comunque sono delle piccole beghe burocratiche che verranno comunque poi... Sul sito di Abruxelles, d'accordo, perché non credo che al Comitato delle Regioni possano entrare tutti, no? No. Appunto, quindi saranno specificate le modalità. Sì. Va bene, d'accordo. Quindi questa è un'attività. Poi, so appunto, perché ci siamo sentiti, che tu volevi anche... Vabbè, devo dire che anch'io sono una socia. Mi sembra che non l'ho detto, vero Alessandro? Quindi in questa moda così diciamo che c'è un conflitto di interesse palese. È vero. Forse era meglio che non lo dicevo. Vabbè, allora, no, siccome appunto ci siamo sentiti e so che vorresti anche realizzare qualche iniziativa per raccogliere dei fondi da fare avere alle zone colpite dal terremoto, perché appunto il terremoto dei mesi scorsi ha interessato, sì, diciamo, meno l'Abruzzo, ma regioni confinanti quali l'Umbria, il Lazio e le Marche, ma diciamo in parte anche l'Abruzzo, quindi volevi organizzare delle iniziative e a questo proposito, ecco, sì, possiamo anche dire è un evento passato, però appunto l'altra sera c'è stata una serata organizzata dagli Umbria Bruxelles, Umbria Jazz, che appunto era una serata anche qui, diciamo, con dove c'era una degustazione di prodotti, ma lo scopo era proprio quello di raccogliere dei fondi da destinare alle zone terremotate, e quindi c'è anche l'idea che anche a Bruxelles faccia qualcosa in questo senso. Sì, allora cosa abbiamo, purtroppo diciamo lo scorso estate c'è stata un po' stravolta da questo terremoto che ha colpito il centro Italia, ha colpito un po' tutti, perché comunque io ero in Abruzzo, ero a Pineto da un caro amico perché ero sceso in vacanza e sono stato svegliato nel cuore della notte da una scossa molto forte che, come si può ben immaginare, io ero in vacanza sulla costa, per sentirla così forte a Pineto, che comunque sta sul mare, io pensavo che fosse successo qualcosa all'Aquila di nuovo, purtroppo, perché io ho avuto anche questa sfortuna di aver vissuto il terremoto dell'Aquila in prima persona. E so cosa vuol dire, comunque questo è uno shock molto forte che colpisce purtroppo la maggior parte delle volte durante la notte e ti cambia la vita veramente in pochissimo tempo, perché quei luoghi che per te sono familiari, che per te sono una casa, vengono totalmente distrutti, annientati da un qualcosa che dura può durare 10 secondi, un minuto, però è un qualcosa veramente terrificante e scioccante. E ripeto, io purtroppo l'ho vissuto all'Aquila perché ero presente lì la notte del terremoto del 6 aprile. Quindi abbiamo deciso di fare questo evento di beneficenza grazie anche alla collaborazione con i marchigiani a Bruxelles e gli umbri a Bruxelles. Quindi abbiamo deciso di andare oltre, questa è la nostra territorialità, per metterci insieme, creare questo grande evento e fare questo evento per raccogliere dei fondi e destinarli per l'appunto a chi ne ha bisogno. Stiamo definendo i dettagli, pensiamo di fare questa attività comunque nel prossimo febbraio, perché comunque abbiamo tempo, vogliamo organizzare una cosa fatta bene, per cercare di raccogliere delle somme e cercare di destinarle a progetti concreti, ecco. Quindi seguiranno aggiornamenti che pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook e sul sito, però vorrei ringraziare soprattutto il gruppo degli Umbri a Bruxelles e il presidente Francesca Cionco, e vorrei ringraziare anche il gruppo dei marchigiani a Bruxelles, che non hanno un presidente, quindi li ringrazio tutti quanti. Io conosco Francesca Bignami, quindi la vorrei ringraziare personalmente, perché veramente ci siamo visti, ci siamo conosciuti e abbiamo lanciato una serie di idee per valorizzare questa collaborazione, conoscerci e portare comunque a fare questo grande evento. Quindi questo evento, diciamo, è in via di definizione, non, esatto, è ancora, non si sa ancora esattamente cosa sarà, però ci stiamo lavorando. Ne riparleremo ovviamente in radio, faremo pubblicità a questo evento. Allora, prima di mandare un altro brano musicale, io vorrei, Claudio, che tu pensassi ad un colore, non me lo devi dire adesso, che secondo te si associa ad A Bruxelles, così, che ti viene in mente, sì, e poi ci spiegherai anche perché. Ma va benissimo. Va bene, quindi questo è per dopo. Ci pensiamo tutti al colore, intanto ci dedichiamo le orecchie con questa bella canzone. I colori dell'anima di lunedì dalle 21 alle 22 in diretta. Allora, Claudio, hai pensato ad un colore di A Bruxelles? Sì, l'ho pensato. E diccelo. Verde. Verde. Solo verde o magari verde, che ne so, verde rosmarino, verde... Verde. Vorrei spiegare anche il perché del verde. Spiega. Allora, lo stemma d'Abruzzo è fatto da tre colori, c'è il bianco, il verde e il blu. Perché l'Abruzzo è una delle poche regioni in Italia dove si può passare dalla montagna al mare in meno di un'ora. Quindi perché ho scelto il verde? perché il verde è a metà tra il bianco delle montagne, quindi immagino il Gran Sasso, mi scuso, ma ho studiato all'Aquila, quindi vedo il Gran Sasso più che la Maiella. Ti scuso, io vedo la Maiella invece, va bene. Dall'altra parte vedo il blu del mare, e in mezzo a cosa c'è? Il verde. E questa è la forza della nostra ragione, perché da quel verde di quelle colline, da quel verde della nostra natura, da quel verde che ci dà tanto dal punto di vista agroalimentare, da una parte ci giriamo e c'è il bianco della montagna, dall'altra parte ci giriamo e c'è il blu del mare. E noi stiamo lì in mezzo, siamo così contenti di stare in mezzo a quel verde, perché stai così rilassato, stai bene, sotto la Maiella ovviamente, si sta bene, ci sono queste città, questi borghi molto belli, e si ha la consapevolezza che si è tra tre meraviglie, tra il bianco, si vive nel verde, si sta a contatto con il bianco, ma soprattutto si sta a due passi dal blu, l'estate. E va bene, prendiamo questo verde. Dunque, a Bruxelles, il sito web www.abruxelles.com, Facebook, varie attività, e ce n'è una in particolare di mercoledì. Sì, è il prossimo mercoledì ci sarà mercoledì 7 uh-huh. dicembre ci sarà la presentazione del libro La nostra Marcinelle, uh-huh. che è stato comunque, sono due soci dell'associazione, Max Pelagatti ed Enrico Buccione, che sono occupati di fare di queste ricerche sugli abruzzesi che sono arrivati in Belgio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi parliamo di quell'emigrazione che è venuta qui per scendere in miniera, di quegli italiani che sono venuti in Belgio per andare in miniera. Quindi racconta la storia di questa famiglia che poi si trasferisce in queste case di latta. Da queste case di latta comunque vive una vita differente da quella che aveva in Abruzzo, ma lo fa per un futuro migliore. Lo fa perché dopo la Seconda Guerra Mondiale in Abruzzo comunque c'era, come in Italia, c'è stata questa guerra che ha distrutto, che ha creato dei danni materiali ed immateriali, quindi queste persone fu promessa una sorta di via d'uscita, una sorta di una possibilità di redimersi in Belgio, una nazione lontana che molto probabilmente nessuno conosceva, fredda. Però a queste persone è stato detto: lo Stato italiano ha fatto un accordo con lo Stato belga, vi garantiamo uno stipendio, un futuro, andate in Belgio. Quindi si parte dall'Abruzzo, si arriva in Belgio. Si arriva a Genk, a Charleroi, e purtroppo questa famiglia poi, la storia è molto emblematica, il libro è molto bello, si scontra con una tragedia che c'è stata qui a Bruxelles, perché un membro, ecco, di questa famiglia muore durante la tragedia di Marcinelle, e quindi praticamente questa famiglia viene sconvolta, perché da un lato è venuta in Belgio con delle speranze, con delle aspettative, dall'altra parte il Belgio gli ha tolto tutto. E quindi questa storia di questa famiglia comunque poi supera queste difficoltà, e oggi le autrici che hanno scritto il libro, perché il libro è stato scritto dalla sorella di Enrica Buccione, non ricordo il nome, scusami Enrica, dopo la morte del nonno la famiglia comunque la vita è stravolta, ma comunque si va avanti e si ha la forza di raccontare questa storia dopo molti anni. Io vorrei anche ringraziare Max Pelagatti, vorrei ringraziare e scusarmi perché mi accorgo che lo stillo di chiamate, di messaggi per le varie attività che facciamo con l'associazione e per le varie attività del sito web, perché lui se ne occupa, lo cura e lo aggiorna, e quindi mi scuso, ma ormai Max lo chiamo praticamente spesso. E poi vorrei ringraziarlo perché comunque è sempre una persona disponibile, che comunque ci ha detto che ha molto a cuore lo scopo di A Bruxelles, e lavoriamo molto ritagliandoci, purtroppo prendendo molto tempo dal weekend oppure dal tempo libero, per portare avanti dei progetti concreti. E vorrei ringraziarlo perché comunque è una persona che c'è sempre stata quando c'è stato bisogno di qualcosa, anche per la mostra fotografica, ci ha dato una mano dal punto di vista tecnico, senza chiedere nulla in cambio, perché noi siamo qua, facciamo tutto questo perché a noi piace l'Abruzzo, a noi piace dire che siamo abruzzesi, senza campanilismo, perché siamo in Europa, siamo europei, cittadini abruzzesi ed europei. Mm-hmm. Bene, allora grazie anche da parte mia a Max. Dunque, di associazioni appunto a Bruxelles, dicevamo prima, ce ne sono altre, e tu hai citato quella dei marchigiani, abbiamo parlato anche di quella degli Umbri, e effettivamente al di là, diciamo, dell'evento enogastronomico che serve per far conoscere, ma tu immagini che questa associazione possa fare anche il contrario, cioè far conoscere Bruxelles agli abruzzesi? Sì. Quelli che non vivono qui, ovviamente. Questo è anche un nostro intento, perché noi comunque abbiamo questa ambivalenza, cioè nel senso che noi siamo qui a Bruxelles in Belgio, ma con 2 ore di aereo siamo a casa. Quindi molti soci, la gran parte di noi passa molto tempo a casa, perché si sente ancora questo forte legame con l'Abruzzo, che comunque grazie anche sia comunque con la tecnologia, sia comunque a questa facilità di spostamento con l'aereo, ci sentiamo ancora attaccati molto all'Abruzzo, lo viviamo sempre, lo viviamo spesso. E quindi questo in un futuro, un'evoluzione del sito, sarà anche quella di dare un aiuto agli abruzzesi che vogliono venire qua. E quello che posso dire è già lo stiamo facendo, perché tra i nostri soci ci sono anche dei ragazzi che sono arrivati qua, che mi contattano grazie al giro di amici, grazie a Facebook, che comunque è veramente un aiuto, una mano gratuita e formidabile. Mi contattano dicendo: Claudio, siamo amici in comune perché conosco X, mi dai una mano? Va benissimo. L'ultimo socio l'ho testerato, Giovanni, l'ho testato giovedì scorso, che è venuto qui, sta studiando, e mi ha chiesto delle informazioni, ho detto: guarda, qui funziona così, la metro, i mezzi pubblici funzionano così, la vita funziona così, ti consiglio di fare questo, ti consiglio di prendere casa qui, ti consiglio di muoverti in questo senso, se hai bisogno di qualcosa, se vuoi giocare a calcetto vieni a giocare con noi perché organizziamo le partite, se hai bisogno di compagnia telefonica ti consiglio questa e questo, qua non funziona come in Italia, mi raccomando fai questo e questo. Lo faccio con passione, perché quello che devo dire, anche io purtroppo sono incappato in queste problematiche, perché quando arrivai in Belgio, nel lontano, che tanto lontano non è, aprile 2015, ieri no, l'altro ieri, ah, l'altro ieri, vabbè, sì, arrivai da Zaventem, perché comunque venendo da Roccavivi, che è un paese vicino a Vezzano, sono equidistante tra Roma e Pescara, quindi io viaggio sempre da Roma. Arrivai a Bruxelles e non conoscevo nulla. Arrivai per fare uno stage presso la regione Abruzzo, sapevo dove era la regione, Avenue Louise. Non conoscevo la zona, non conoscevo la città, arrivo in città. Quindi io ho questo carattere forte, quindi ho cercato delle risposte alle mie domande. Quindi come si fa questo, come si arriva, come si va, chiedi cosa devi fare, qual è la zona, contatta le persone. E piano piano poi ho avuto anche comunque la fortuna di avere con me Valerio, questo ragazzo, questo amico che ha fatto il tirocinio con me, con il quale ci sentiamo spesso. E siamo a quel punto incappati in queste cose. Come si vive a Bruxelles arrivando così dal nulla? E dato che io ho sempre cercato qualcuno che poi può darti una mano anche nelle piccole cose, dicendo: ma a Bruxelles che ci sta? Ma fa freddo a Bruxelles? La domanda che ci fanno tutti qual è? Ma fa freddo? Poi io dico: vengo dall'Aquila, la città. La risposta è sì. Vabbè, per te forse, certo, venendo dall'Aquila no. La città più fredda d'Italia, qua è normale. E quindi abbiamo cercato questa cosa, e mi fa molto piacere che molti ragazzi soprattutto mi contattano, studenti, dicendomi: Claudio, sto venendo, mi dai una mano? La sera ci vediamo per una birra? Va benissimo. E quindi un progetto futuro sarà anche questo, dare una mano con un sito che sarà più dinamico possibile, dando delle informazioni. Ci stiamo lavorando, perché comunque, ripeto, a Bruxelles è un'associazione culturale, quindi non siamo né un'agenzia, né una propaggine della regione, né un'agenzia di qualsivoglia maniera. Siamo semplicemente degli abruzzesi che vogliono dare un aiuto ad altri abruzzesi, agli italiani, agli europei e quant'altro, senza fare del campanilismo. Per diventare soci di A Brussels si pagano 10 euro, almeno questa era la quota 2016. Quale sarà la quota 2017? Puntiamo sui 50-60 euro. Dai, per i soci che lavorano in serio. Solo per i soci che lavorano in radio. Più IVA, vero? Più IVA, sì. Più IVA. Noi abbiamo chiesto questi 10 euro, che sono una quota simbolica, che confermeremo quasi sicuramente nel 2017, vorremmo aumentare di poco, ma è soltanto una quota simbolica, perché noi vogliamo comunque avere notorietà con delle attività. Questo cosa vuol dire? I 10 euro che vengono donati sono 10 euro che ci aiutano nelle piccole spese quotidiane, tipo quando siamo andati a Marcinelle lo scorso agosto per depositare la corona di fiori ai morti abruzzesi, quando abbiamo delle piccole spese, come se volessimo organizzare un qualcosa, ecco, come un evento culturale oppure un evento per la di beneficenza, dobbiamo avere un piccolo fondo cassa per stampare le tessere, che hanno un costo, e quindi chiediamo questa piccola quota. Però quello che ci fa piacere non è tanto la quota in sé, è la consapevolezza che una persona ci sta dando quei 10 euro, ci sta dando quel gesto che ti dice: guarda, voglio partecipare, mi fa molto piacere comunque vedere che questa iniziativa sia comunque buona, propositiva, voglio affiliarmi, mi fa piacere. E posso fare anche un esempio di una persona che ho conosciuto qua a Bruxelles, che all'inizio comunque mandava molte email durante i primi tempi, e delle volte non scrivevo il nome, scrivevo l'associazione a Bruxelles. Uh-huh. E delle volte, non conoscendo le persone, qualcuno mi rispondeva: sì, ma abruzzesi chi siete? Siete, fate parte della regione? Siete un gruppo? Siete un'associazione a delinquere? Chi siete? E poi queste piccole persone, questi piccoli gruppi di persone che poi ho conosciuto, pian piano li ho conosciuti personalmente, ed oggi ti danno la possibilità di parlare in radio. Ti danno la possibilità di farti conoscere altre persone che sono qua in Abruzzo e che sono qua a Bruxelles. Ma soprattutto la consapevolezza, la cosa bella è che queste persone mi dicono: vedi, mi piace questa attività, alla fine vedo molto entusiasmo, ci sono delle potenzialità, perché no? Why not? Cioè, noi siamo propositivi, attivi, fin dove possiamo facciamo, altrimenti ci sono altri enti preposti, non so quali, però qualcuno lo farà. Va bene, comunque parleremo ancora qualche minuto, però magari prima potremmo ascoltare un po' di musica. Certo. Grazie. Ai tuoi ordini. Grazie. Allora, siamo arrivati proprio alla fine della trasmissione di oggi. Abbiamo parlato di A Bruxelles, ma restano ancora pochi minuti per dare qualche altra informazione. Ad esempio, i soci possono essere solo abruzzesi? Bella domanda. Allora, a Bruxelles la risposta è no, perché noi siamo qui per diffondere la cultura abruzzese, per far conoscere l'Abruzzo a tutte le persone che vivono o amano l'Abruzzo, e vorrei fare anche degli esempi pratici. Tra i nostri soci, che ad oggi sono più di 80, ci sono anche delle persone che non sono abruzzesi o nate in Abruzzo. Ad esempio, io sono nato a Sora, in provincia di Frosinone, perché io abito nel confine tra Lazio, tra Abruzzo e Lazio. Abbiamo dei soci che sono olandesi ma abitano da 15 anni a Pescara, sono di Taranto ma hanno studiato a Chieti, sono dei soci che vengono anche dalla campagna ma ecco sono abitano una casa a Castel di Sangro, sono dei soci che sono romani però dicono: per me l'inverno è montagna, Abruzzo, Gran Sasso, L'Aquila. E soprattutto un'altra cosa, soci che sono anche, ad esempio, delle volte che vogliono conoscere l'Abruzzo, ci andiamo, quindi siete abruzzesi, comincia a parlare dell'Abruzzo, mi piace, voglio tesserarmi, voglio far parte di questa comunità. Questo rispecchia anche, io invito tutti quanti gli ascoltatori a visitare il nostro sito ed a vedere il nostro logo, perché il nostro logo rispecchia la nostra identità. La A di A Bruxelles è di colore blu, il colore dell'UE, contornata dalle stelle, come la bandiera europea, perché noi siamo abruzzesi con la maiuscola in quanto europei, quindi cose come campanilismo, zero, niente con noi. Noi siamo abruzzesi perché veniamo dall'Abruzzo, ma siamo allo stesso tempo europei, quindi noi siamo qui per valorizzare quello che abbiamo, non accettiamo gli inviti anche di altre regioni. Ad esempio, domani sera quasi sicuramente incontrerò anche i pugliesi a Bruxelles, a Puglia. Ho degli ottimi rapporti con l'associazione degli Umbri, dei Marchigiani, cioè noi siamo qua per promuovere, per condividere e per stare insieme. Lungi da noi fare del campanilismo qua a Bruxelles, che è proprio l'ultima città per fare del campanilismo. Quindi siamo abruzzesi, europei, portiamo avanti quello che abbiamo, nella consapevolezza che condividere e dividere la nostra cultura è un valore aggiunto per noi e per gli altri. Semplicemente vabbè, questo. Quindi chiunque si considera amico dell'Abruzzo, in realtà si può iscrivere a questa associazione senza necessariamente avere a che fare con l'Abruzzo, ma versando comunque la quota. Versando la quota, quindi adesso certamente non vi invitiamo ad iscrivervi ad A Bruxelles per il 2016, ma vi invitiamo a farlo per il 2017, e quindi quanto prima saranno aperte le quotazioni, giusto? Sì, siamo anche quotati, tra poco ci quoteremo anche in borsa. Anche in borsa, infatti. Va bene. Allora, siamo veramente alla fine. Io ringrazio Claudio Vernarelli. Grazie a voi per questa possibilità. Grazie, e poi le trasmissioni magari non immediatamente, però le mettiamo anche sul nostro blog, che è radioalma.eu/icoloridellanima, tutto attaccato. Alessandro, una parola conclusiva? Sei stato bene questa sera? Mi coglie un po' impreparato qua. Stavo scegliendo l'ultima canzone della, della serata, però... No, devo dire che è una bella iniziativa. Mm-hmm. Poi il ragazzo si presenta bene, tutto sommato. Mm-hmm. Cioè, la parlantina sì. ce l'ha. Perché, la... non, perché non ti metti in politica? Magari qualcosa riusciamo a tirar fuori. Vabbè, magari, dai. Quindi questa era una cosa tipo Claudio Stesereno, ma hai lanciato l'hashtag. Tranquillo, ci pensiamo noi, ci piazziamo noi da qualche parte. Infatti, vediamo. Ci pensiamo noi. Grazie Alessandro. E grazie anche da me Rosanna, buona serata a tutti i radioascoltatori di Radio Alma e in particolare ai radioascoltatori dei colori dell'anima. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao, buona serata.